Così come c'è stata la febbre dell'oro, c'è stato anche un tempo per la febbre dell'ombrico. Leggendo un vecchio saggio di Stephen Jay Gould, Quando i cavalli avevano le dita, un saggio dell'84, mi è tornata alla mente quella strana vicenda in cui parecchi italiani si convinsero che i loro problemi erano finiti e che l'agiatezza li attendeva da un momento all'altro, grazie ai lombrichi. Gould, nel suo saggio, ricorda che l'ultima opera di Darwin, terminata nel 1881, proprio l'anno prima della sua morte, quest'ultima opera di Darwin era dedicata ai lombrichi. Si trattava di un'opera meticolosa, preceduta da anni di misurazioni, scavi, calcoli, osservazioni empiriche. In pratica, il vecchio Darwin giungeva ad individuare l'enorme responsabilità dei lombrichi sulla configurazione dei nostri paesaggi. È da sapersi infatti che questo simpatico animaletto tritura tutto ciò che incontra, rocce incluse, non negando alcunché al proprio tubo digerente, rimescolando, cibandosi ed escrementando a più non posso, dunque disaggrega il suolo e, per così dire, lo prepara alla furia plasmatrice degli elementi. Acqua, vento, forza di gravità danno il tocco definitivo all'opera. Il carattere basso, ondulato della topografia in aree abitate dai lombrichi, scrive Gould sulla scia di Darwin, è in gran parte una testimonianza del loro lavoro lento ma costante. Il cosiddetto terriccio vegetale altro non è che materiale non metabolizzato ed escrementi di lombrichi, i quali agiscono in pattuglie piuttosto numerose, peraltro, se è vero, come dice Darwin, che un ettaro di suolo britannico ai suoi tempi, perlomeno, conteneva in media 132.889 lombrichi, letterale, testuale, pari ad un peso di 339 chili di lombrico vivo. Qui si capisce anche come mai dalla sua autobiografia non si abbia che notizie disastrose sul suo stato di salute. Uno che scava tutto il giorno contando lombrichi, poi, ecco, proprio bene alla sera non può. Anche bene il tipo di rapporto che Darwin intratteneva con le donne, visto che racconta lui stesso di aver affidato ad una signora da lui stimatissima l'ingrato compito, permettetemi di dire, di definirlo così, l'ingrato compito di raccogliere tutte le deiezioni di lombrichi su due pezzi di terreno separati di una yarda quadrata ciascuno nei pressi di Light Hill Place nel Surrey. Ciò non tanto al fine di ingraziarsi la paziente signora, presumibilmente, quanto piuttosto di poter stimare il prodotto, diciamo lordo annuo per ettaro, di una banda di lombrichi. Gould scrive il suo saggio nel 1982. Nel centenario della morte di Darwin, ed è proprio in quell'anno, guarda le coincidenze, che il miraggio dell'ombrico affascina il popolo italico. Lungi dalle curiosità scientifiche darwiniane, in realtà il lombrico apparve all'orizzonte come un conto in banca assicurato. Ne parlò il povero Enzo Tortora a Portobello e se ne discettò sulla stampa nazionale, compreso sulle pagine di Famiglia Cristiana e perfino del Messaggero di Sant'Antonio di Padova. Venne anche pubblicata la ristampa anastatica del classico studio di Darwin, giusto per dare un tocco colto al miraggio. Nelle propagande dell'epoca si definiva il re degli anellidi come l'animale più utile alla natura e quindi all'uomo. Si vendeva nella varietà detta rosso della California. Se ne vantava l'ermafroditismo e la precocissima maturità sessuale, in merito alla quale ogni tanto espelleva una capsula da cui potevano fuoriuscire perfino una ventina di gagliardi giovani lombrichini che, come avrebbero visto la luce, si sarebbero messi alacremente al lavoro, ovvero sia a inghiottire e digerire che sia avessero trovato a stretto contatto. Un affarone, Un affarone, dicevano, non i lombrichi, ma i venditori di lombrichi, dicevano un affarone per chi poi avrebbe avuto la fila di clienti o per acquistare il prezioso humus di lombrico o direttamente una banda di lombrichi da indirizzare allo smaltimento rifiuti. Un lavoro che nessuno sapeva fare come lo sapevano far loro. Come in tutti i casi di questo genere, chi davvero ci ha guadagnato è chi se ne è liberato per primo, grazie al successo popolare. Il sogno speculativo si insediava nell'immaginario collettivo all'insegna del precetto loro lavorano mentre voi vi godete la vita, per cui è vero che in tanti cortili di speranzosi cittadini comparvero un bel po' di lettiere per lombrichi. Quando il fenomeno di accaparramento del rosso di California è cessato, chi non è stato lesto a passare di mano il suo tesoro avrà finito col tenerselo o con l'aprire le lettiere e lasciare le bestiole in libertà. Reso edotto dalla scienza darwiniana, è lecito supporre che li avrà liberati ben lontano da casa propria, perché in caso contrario non solo non è diventato ricco, ma dopo un po' gli si sarebbe aperta una voragine sotto i piedi. A pensarci bene, la febbre del lombrico sotto diverse forme è ricorrente. Non si chiamerà febbre del lombrico, ma più o meno alla stessa categoria di atti fideistici appartengono le raccolte di francobolli o degli assegnini, per esempio, con i quali per un certo periodo si è cercato di sopperire alla carenza di spiccioli. Appartengono alla stessa categoria di atti fideistici gli allevamenti di cincillà o di altri tapini da ingrassare in tinello in attesa di vorticose riproduzioni e di soldi piovuti dal cielo dei pellicciai. Secoli fa in mezza Europa qualcosa di simile, più ancora accentuatamente in forma di mania collettiva, accadde per la coltivazione dei tulipani. È una delle rappresentazioni possibili del versante domestico delle crisi economiche, la dimostrazione che qualsiasi cosa può diventare buona per tacitare l'ansia del domani. Perfino quei lombrichi che, a modo loro, costituiscono una delle nostre poche certezze quando il domani avrà smesso di farci paura.